mia, per i tuoi baci gloria, per il tuo amore gloria, chi non ha pianto ancora, ti cercano nei baci tuoi, si perdono e ancora non comprendono che tu li ingannerai. Credono di conquistarti, ma si illudono perché mai nessun potrà tenerti più d'un giorno accanto a sé. Nel tuo fascino quante illusioni nascono, quante speranze muoiono, tormento sei d'amore. Quante speranze muoiono, tormento sei d'amor. Gloria, gloria, si illudono ma in vano, perché il tuo amore non ne ha amore.